Siamo in collegamento con Udo Envereuzor, che presenterà oggi pomeriggio una ricerca sulla diffusione della carta di soggiorno per stranieri residenti nella provincia di Firenze. Udo, come si svolgerà questa presentazione? Buongiorno. Dunque, oggi presenteremo il risultato di un'indagine che è stata iniziata alla fine del 2003 e concluso a metà del 2004 sulla la diffusione della carta di soggiorno fra i cittadini stranieri di lunga residenza, presenti e soggiornanti in Italia da lungo tempo. Questo verrà appunto presentata alla cittadinanza e verranno esposti i risultati che abbiamo trovato nel corso dei lavori. I risultati più evidenti sono, in termini numerici, piuttosto bassi. Intanto mi permette di ricordare che la carta è stata introdotta dalla legge Turco-Napolitano nel 98, però la sua applicazione pratica è partita con ritardo a causa dell'uscita ritardata dal regolamento di attuazione di quella legge. Tuttavia in altre province d'Italia, come è stata accertata da una ricerca della Commissione per le politiche di integrazione, quale ho seguito da vicino alcuni anni addietro, in alcune province partì anche l'attuazione dell'istituto della carta, mentre nel caso di Firenze, per esempio, della provincia di Firenze, questo non avvenne e il rilascio, l'accettazione delle domande e il rilascio cominciò solo con l'uscita del regolamento, che uscì con 18 mesi di ritardo. In ogni caso l'istituto è vecchio, parte dal 98, ad oggi abbiamo rilevato alla data, i primi di marzo, perché i dati fornitici dall'ufficio di immigrazione della questione di Firenze è riferita a marzo 2004, a quella data c'erano solo 2.585 titoli carta di soggiorno rilasciati. Questo a fronte di un avente diritto, un numero di aventi diritto pari a 7.000 secondo la questura. Ora, oggi questo è uno degli aspetti che discuteremo, anche questa stima degli aventi diritto è qualcosa che contrasta fortemente con quelle che sono le conoscenze quantitative in termini di numero di persone presenti sul territorio da molti anni. Aggiungo per completezza che per una condizione necessaria per poter avere la carta è l'essere stato sul territorio regolarmente soggiornante, ripeto, regolarmente soggiornanti da almeno 5 anni fino all'uscita della legge Bossi-Fini, e dall'uscita di Bossi-Fini sono diventati 6 anni. Quindi questo è importante per capire perché la stima degli aventi diritti fornitaci in questa ricerca dall'Ufficio di Immigrazione della Questura di Firenze lascia molti spazi per dubbi. Quindi questo strumento della carta è uno strumento che integra poi l'istituto anche del permesso di soggiorno, è una cosa diversa allora? Assolutamente sì, è stata concepita in linea, ad onore del vero, di quello che è in linea con quello che avviene in molti altri paesi di storia più lunga di immigrazione, è stata concepita come uno strumento che si colloca più avanzata dell'ordinario permesso di soggiorno. Tanto è che a questo strumento, a questo titolo particolare, sono collegati alcuni diritti, per esempio, che non sono collegati con la carta di soggiorno. E questo è anche uno degli aspetti, una delle ragioni per cui l'amministrazione, il settore politico del lavoro della provincia di Firenze ha ritenuto opportuna avviare questa indagine per vedere in che modo le politiche pubbliche a livello locale possono facilitare, agevolare e rendere più spedita l'acquisizione, l'accesso a questo titolo. Senti, l'ultima domanda, volevo chiederti se la legge Bossi-Fini diciamo, introdurrà delle, soprattutto con la concentrazione sull'ingresso subordinato al lavoro e sul concentramento sui flussi, se costituirà un impedimento ai cittadini che volessero accedere alla carta di soggiorno. Dai risultati delle indagini che abbiamo fatto qui, la risposta è sì. Nel senso che risulta e questo è uno degli altri nodi che emergono nella ricerca, di cui si ha sentore in altre parti d'Italia, però non documentata ancora con una ricerca sistematica, emerge che le condizioni, l'interpretazione delle condizioni del lavoro fatte dalle diverse questure fa sì che le nuove previsioni della Bossi-Fini aggravano, complicano, aumentano le difficoltà di accesso alla carta. E parallelamente poi c'è, incombe la minaccia di, se uno rimane, se per sei mesi non ottiene, non ha un lavoro, eccetera, e non scaduto il titolo, dopo può essere rinnovato per un massimo di sei mesi, dopodiché deve lasciare. Cioè c'è una, i dati suggeriscono, fanno pensare a un aggravamento di una precarizzazione, non solo non nel lavoro in sé, proprio nell'accesso, nel titolo legale di permanenza in questo paese.